Allora, 19:11, torniamo in diretta con cronache di regime, sempre dalle frequenze streaming di Mala Radio. Abbiamo ascoltato i Rancid con Maxwell Murder e poi Lori Myers di NFX. E come detto, ora ci colleghiamo con una compagna che ci spiegherà meglio degli arresti che ci sono stati il 16 di marzo a Roma. Pronto, ciao, ci senti? Sì, ciao, ciao. Ciao, buona serata e benvenuta a Cronache di Regime. Grazie, ciao. Allora, Ciao a tutti. niente, volevamo un po' Sì. sapere un po' meglio cosa è successo il 16 di marzo. Ci sono stati questi arresti, ti volevamo chiedere insomma come è strutturata l'inchiesta, quali sono i reati, qual è la procura insomma che ha chiesto gli arresti, eccetera. Un paio di domande a riguardo. Sì, allora Gianluca e Evelyn sono stati arrestati il 16 marzo con l'accusa di detenzione di materiale esplodente e tentata fabbricazione di ordigni esplosivi. E il GIP ha riconosciuto anche la finalità di attentato alla pubblica incolumità. In realtà la procura che spinge tutto questo è il solito Federico Manotti, che è abbastanza conosciuto a Genova perché sono più di 10 anni che indaga e cerca di farsi strada con gli arresti di anarchici. È stato quello che, per esempio, è stata l'accusa nell'operazione Prometeo, è stato quello che ha spinto le sorveglianze speciali per delle compagne. Sulla base di accuse rispetto a reati associativi di appartenenza alla fai informale, fai free. Adesso il PM aveva chiesto l'aggravante di terrorismo, che non è stata riconosciuta dal GIP perché sostanzialmente era basata su una serie di valutazioni, insomma, su quello che il PM riconosceva come la loro appartenenza al movimento anarchico e la loro presenza a tutta una serie di momenti di solidarietà con dei compagni arrestati nei vari processi, tra cui il processo Scriptamanent. Sostanzialmente è questo: questi arresti nascono dal ritrovamento di materiali in un bosco vicino Genova, materiali che secondo l'accusa potrebbero essere usati per fabbricare esplosivi o ordigni di vario genere, e più o meno questo è quanto, insomma. Ok, volevo chiederti, correggimi, se sbaglio, l'inchiesta questa volta è portata avanti in maniera bilaterale da Digos e Ross, vero? Sì. Nel senso che comunque appunto partendo da tutte queste ipotesi di terrorismo dovrebbe avere questa doppia impronta, poi oddio, questo è quello che sì, è un'operazione congiunta tra Digos e Ross, poi un po' come al solito No, perché ultimamente, questa però. sarebbe, vabbè, dai, cioè, però sarebbe abbastanza una novità riguardo alle ultime operazioni che le fanno Oddio. proprio insieme. Vabbè, Sì. di queste rosse, insomma. E volevo chiederti, quindi, non essendoci l'aggravante, di terrorismo, i compagni non dovrebbero andare in AS2, quindi il compagno e la compagna dovrebbero rimanere nelle sezioni comuni, Sì. giusto? Allora, sì, loro in questo momento sono detenuti entrambi a Rebibbia, tuttavia dovrebbero teoricamente andare tra i comuni, questo è quello che ci si aspetta, anche se in realtà da quello che si è capito oggi è stata depositata, loro attualmente sono ancora in isolamento Covid, però oggi è stata depositata l'istanza per i domiciliari e teoricamente si spera, dovrebbe essere accettata, per cui insomma, dovrebbero andare in due case differenti, però insomma, si spera che venga accettata questa istanza, ecco. Quindi, però se non venisse accettata dovrebbero finire tra i comuni. Ok, quindi comunque hanno già fatto un interrogatorio di garanzia e hanno provato a fare richiesta di stanza per i domiciliari, giusto? Sì, oggi l'interrogatorio di garanzia è stato qualche giorno fa e la richiesta di istanza è stata presentata stamattina. Ok, va bene, quindi allora speriamo innanzitutto che questa istanza venga accettata e in caso non venga accettata, non lo so, ti volevo fare una domanda un po' così, però non so se si pensano già ad iniziative di solidarietà o dei compagni e delle compagne con cui si stanno già provando ad organizzare in caso ci siano già degli estremi per mandare soldi o c'è comunque già qualcuno che se ne sta Allora, occupando. sì, allora rispetto a questo le cose sono ovviamente ancora un pochino in costruzione, nel senso che gli arresti sono di pochi giorni fa, però per il momento adesso si sta organizzando una cassa specifica di cui gli estremi dovrebbero uscire tra pochi giorni, anche se i compagni andassero ai domiciliari comunque per sostenerli, perché da quello che si immagina dovrebbero finire domiciliari senza la possibilità di permessi lavorativi e tutto, quindi ci sarebbero comunque problematiche rispetto agli affitti e tutto, quindi gli estremi della cassa dovrebbero uscire. Ci sono già delle iniziative a livello locale per raccogliere i soldi e questo è più o meno quello che esiste in questo momento come iniziative di solidarietà, insomma, poi sugli estremi dovrebbero uscire appunto tra poco. Ok, perfetto. Vogliamo ricordare gli indirizzi? Se non Sì, ce l'hai sotto mano, li ricordo io. ricordali tu, io ce li ho Ok. sotto mano, ma ricordali pure tu. Ok, allora se vogliamo scrivere a questi due compagni arrestati, possiamo farlo scrivendo ad Evelyn Sterni, presso la casa circondariale di Roma Re Bibbia Femminile, sita in via Bartolo Longo 92 00 156 Roma. Invece, se vogliamo scrivere a Gianluca, possiamo farlo scrivendo a Gianluca Iacovacci, casa circondariale di Roma Re Bibbia Maschile, via Raffaele Maietti 70 00 156 Roma. Va bene, perfetto, ti ringraziamo per la disponibilità. Speriamo appunto che magari settimana prossima potremo dare un aggiornamento positivo a riguardo di questi arresti. E niente, ti ringraziamo e ti auguriamo buona serata. Perfetto, Grazie a voi, buona serata, buon grazie mille, proseguimento. disponibilissima. Ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao, presto, ciao, ciao.